pesci d'aprile per tutti domani, ma intanto questa sera iniziamo una nuova puntata della Cicogna Nera, le sonorità popolari contemporanee qui su Radio Onda Rossa ogni giovedì alle 21:15, nuovo orario, slittamento di questo quarto d'ora per permettere a CPT Balkan Music e a Margherita di andare in onda. Dunque, questa sera purtroppo non sono fisicamente presente qui negli studi di San Lorenzo e dunque la mia voce è solo funzionale a presentarvi la scaletta della serata, poi vi lascerò alle sonorità della Cicogna Nera. Questo giovedì ci ascoltiamo musica popular e elettronica, progetti che cercano di mescolare, di fare della pacianca tra la tradizione popolare e appunto i sintetizzatori, i campionatori e i manipolatori elettronici. E dunque ci stiamo per andare ad ascoltare degli artisti e progetti quali ad esempio i Baggio Fondo Tango Club con il loro tango elettronico, oppure gli Oi Vavoi, klezmer elettronico da Londra, ancora in Turchia per una collaborazione tra gli Orient Expression e una cantante curda che ha appena pubblicato l'ultimo album, ossia Aynur Dohan, ancora in India per uno dei generi più popolari da musica da ballo, ossia il Bhangra, con The Rough Guide to the Bhangra Dance, una bellissima collaborazione nel vicino Pakistan a cura di Gaudi, dell'italiano Gaudi, che ha reinterpretato una delle canzoni del più grande interprete di musica sufi, di musica Kabbali, ossia Nusrat Fateh Ali Khan. In Italia ci sarà spazio per il grande sperimentatore di linguaggi, ossia Luigi 5, e ancora nel Maghreb con due DJ, un algerino e uno tunisino, che remisciano in ordine. Il primo sonorità molto molto indiano, ossia Cheb Isaba, che l'ascolteremo con il suo album La Kahena, che è un progetto dedicato alle musiche del Nord Africa, le Voix du Maghreb è il sottotitolo di questo progetto, oppure l'altro è La Metà del Duhud, ossia Sma DJ, un musicista tunisino francese che usa l'oud e l'elettronica come base per le sue sonorità. In chiusura un progetto molto spinto, uno dei più belli album di elettronica world degli ultimi anni, è stato fatto proprio in apertura nel 2000, si chiama Tala Matrix e vede all'interno uno dei più grandi suonatori di tabla, ossia Zakir Hussain, insieme al produttore americano e bassista Bill Loswell. Noi ci lasciamo qui, vi ricordo i contatti che sono la cicognanera @ondarossa.info per la mail, oppure se vi piace la musica potete andare sul sito della radio all'indirizzo www.ondarossa.info/trx/lacicognanera e a riascoltare o ascoltarci in streaming. E detto questo, noi ci lasciamo al primo artista e alla prima canzone della serata, un'elettronica morbida, uno dei più interessanti artisti del Brasile contemporaneo, si chiama Lucas Santana, pubblica nel 2009 Sam Nostalgia, ce l'ascoltiamo con Sira, Regina e Nana. Ciao agli